Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Giulio Caperdoni anche quest'oggi ad aprirvi le porte di Eclettica. Ultimo giorno di luglio, nel caso stiate ascoltando in diretta sulle frequenze terrestri, satellitari o via streaming. Chiaramente l'indicazione del giorno vale un po' relativamente per chi invece ascolta tramite il podcasting, so che siete in molti. Giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail, www.radiorockfm.com è il sito, il nuovo sito della radio, e poi c'è la nostra pagina, il nostro spazio, myspace.com/eclettica. Non esiste alcuna testimonianza circa l'apparizione della falsa macchia d'inchiostro in alcun paese dell'Occidente prima del 1921. Sebbene si sappia che Napoleone si divertiva assai con il cicalino, un dispositivo tenuto nascosto nel palmo della mano che, a contatto, provocava una vibrazione simile ad una scarica elettrica. Quando Napoleone porgeva la mano regale a un dignitario straniero, in segno di amicizia, faceva sussultare l'ignara vittima, e poi scoppiava in una poderosa risata allorché il malcapitato, rosso in volto, faceva un balzo improvviso tra il divertimento della corte. Il suddetto cicalino subì numerose modifiche, la più celebre delle quali avvenne in seguito all'introduzione del chewing gum da parte del generale Santa Anna. Credo che la gomma da masticare fosse originariamente una pietanza preparata dalla moglie, che il generale non riusciva semplicemente a mandare giù. Ed assunse la forma di un pacchetto di tavolette alla menta che contenevano una sottile trappola per topi. Colui al quale veniva offerta una tavoletta sperimentava una acuta pizzicatura non appena la barretta metallica scattava sulle sue dita ignare. La prima reazione era generalmente di dolore intenso, quindi di contagiosa ilarità ed infine di accettazione filosofica. Non è un segreto che lo scherzetto della gomma da masticare con la trappola risollevò considerevolmente gli animi alla battaglia di Alamo e, malgrado non ci siano stati superstiti, la maggior parte degli osservatori ritiene che le cose sarebbero andate molto peggio se non ci fosse stato questo piccolo e arguto passatempo. Questo era l'incipit della scoperta e l'uso della falsa macchia d'inchiostro da Saperla lunga di Woody Allen. Thank you. Che glieli cambia? Ma no, Fantozzi, deve giocarli alla roulotte. Per me. Sì, ma suo marito è d'accordo, cioè, lo sa. Ma noi siamo una coppia moderna, siamo larghi di vedute. Le giochi sul 27, Fantozzi. Sì. Così, quando le viene l'ispirazione. 27. Sì. Il numero dei miei anni. Io pensi che avrei giocato al massimo il 14 o anche il 4. Wasting all my time. six in the evening, and I'm sweeping up the day. The people are leaving, but I am here to stay. It's playing on my mind, wasting all my time. Detto della bellissima Perdieroni la Tierra degli Spagnoli Mus, con cui abbiamo aperto Eclettica di quest'oggi, mi concentro invece sulla traccia che ci siamo appena ascoltati, in quanto è un'assoluta novità, uscito nei negozi di dischi in tutto il mondo il 27, quindi pochi giorni fa, il nuovo, intitolato Roots and Echoes, da parte dei The Coral, la band di Jim Skelly, che sembra con questo disco aver convinto soprattutto la critica che ha ovviamente a disposizione le copie con un relativo anticipo rispetto poi all'uscita ufficiale. Ci sono veramente tanti giudizi con il massimo dei voti, ho provato a girare un po' in internet e bisogna vedere poi quale sarà il verdetto del pubblico. Io sono leggermente più freddo, ma solo leggermente più freddo rispetto ai giudizi così positivi che ho letto in rete. Il brano che ci siamo ascoltati quest'oggi è Who's Gonna Find Me, in cui avevamo sentito, come al solito, le grandi armonie a cui ci hanno abituato i The Coral e anche una frenetica chitarra fuzz. Si prosegue invece con un ripescaggio dall'ultimo album di Björk, questa è Earth Intruders. Yeah. Con l'avvento della guerra civile, gli americani cercavano quanto più possibile di dimenticare gli orrori di una nazione in disfacimento. E mentre i generali nordisti preferivano divertirsi con lo scherzo del bicchiere senza fondo, Robert E. Lee superava molti dei suoi momenti cruciali ricorrendo brillantemente all'uso del fiore con lo schizzo. All'inizio della guerra nessuno di coloro che annusavano quel magnifico garofano all'occhiello del generale Lee riusciva ad evitare una generosa annaffiata d'acqua del Suwannee River. Tuttavia, quando le cose si misero male per il Sud, Lee abbandonò lo scherzetto ormai sorpassato, limitandosi a mettere un chiodo da tappezziere sulla sedia delle persone che non gli andavano a genio. Dopo la guerra e fino ai primi del Novecento, nell'epoca dei cosiddetti baroni ladri, la polvere da starnutire e la scatoletta con l'etichetta mandorle, contenente grossi serpenti a molla che balzavano in faccia alla vittima, rappresentarono il meglio in materia di scherzi di società. Si dice che J.P. Morgan preferisse il primo tipo, mentre il vecchio Rockefeller si trovasse più a suo agio con il secondo. Infine, nel 1921, un gruppo di biologi che si trovavano ad Hong Kong per acquistare abiti scoprì la falsa macchia d'inchiostro. Per molto tempo essa era stata uno dei pezzi forti del repertorio degli scherzi orientali e molte delle ultime dinastie avevano mantenuto il potere manipolando brillantemente ciò che sembrava una bottiglia d'inchiostro versata ed era, in realtà, metallo dipinto a forma di macchia. Le prime macchie d'inchiostro, come si venne a sapere, erano costruite rozzamente ed avevano un diametro di 3 metri, per cui non ingannavano nessuno. Tuttavia, un fisico svizzero scoprì il principio delle misure ridotte e dimostrò che un oggetto avente una particolare dimensione poteva essere ridotto semplicemente facendolo più piccolo, per cui la falsa macchia d'inchiostro ottenne il meritato riconoscimento. Questo era ancora l'incipit della scoperta e l'uso della falsa macchia d'inchiostro, da Saperla lunga, di Woody Allen. Sempre con estremo piacere che ritrasmetto, anche perché così ho la possibilità di ascoltarmelo in cuffia con tutta calma, Farabee Lionheart, artista californiano appena passato con il pezzo dal titolo The Fighter. Si rimane negli Stati Uniti per chiudere questa prima parte di Eclettica di quest'oggi con White Williams, è il nome di una formazione che però è in mano a tal Joe Williams, nato e cresciuto anche dal punto di vista artistico a Cleveland, ma che ora si sta costruendo invece una carriera nella città di New York. New Violence è il titolo del pezzo che chiuderà questa prima parte di Eclettica, che vi ricordo che sarà in onda per tutta l'estate, compreso il mese di agosto. Magari ci sarà ancora, come già successo anche nelle scorse settimane, di sentire replicata una settimana, e questo potrebbe essere, immagino, attorno a Ferragosto. Però per il resto dovremo andare avanti regolarmente, a meno di sorprese. No, non penso ci saranno sorprese. Anzi, sarà anche il caso di decidere quando chiudere questa 13ª stagione, visto che non abbiamo la solita pausa estiva e far cominciare la stagione numero 14 di Eclettica. Succederà fra settembre e ottobre, l'inizio di questa nuova stagione. Magari ci saranno nuove sigle, nuove basi. Vedremo un po' che cosa fare. Magari faremo una o due settimane di sospensione per creare l'attesa del nuovo, ma poi Eclettica riprenderà con la sua formula di musica, di libri e di film. Addio Pina! Ciao Mariangela! Ecco il treno! Il treno? No. Beh, bisogna riconoscere che siamo leggerissimamente in anticipo. Il treno per Monte Carlo partiva alle 23.37. Fantozzi si presentò sul marciapiede alle 4.12 pomeridiane. 7 ore prima.